soluzioni immediate. Allora l'ego ti fa credere che se tu ti arrabbi con tua madre, tu ti difendi dall'invasione di tua mamma, giusto? Okay. L'ego è un parassita, perché ci fa attuare delle strategie per un fine, cioè essere tu e tutelarti da tua madre, queste cose qui. Il risultato che ottiene è sempre il contrario, perché più tu ti difendi da tua madre, siccome lei è in una danza egoica evidentissima, cioè lei ti vuole insegnare come curare tua figlia, cioè non si fida di te, punto, è chiarissimo, non c'ha fiducia. Ora, se qualcuno non ha fiducia in te, che tu ti arrabbi, è naturale, perché ti indica che di quella persona un pochino è meglio che stai attento. La rabbia finisce lì la sua funzione, basta. Cioè, la rabbia ti indica che c'è un'ingiustizia. Una volta che hai capito che c'è ingiustizia, è come vedere la lucina rossa che dice manca la benzina, l'unica cosa da fare è poi andare dal benzinaio. E così l'unica cosa da fare è che sai che questo comportamento di tua madre è ingiusto, che lei è nell'ego. Ora, l'ego però prende questo segnale, è come ti dicesse quando vai in macchina, visto che c'hai poca benzina, fai anche un bel buco nel serbatoio. Ecco cosa fa l'ego. E quindi benzina non ce l'hai poi nella macchina. Allora in quel caso tua madre sta attivando una danza egoica, togliendoti fiducia. Il tuo compito è quello di non colludere con questa cosa, perché la danza è di tipo egoico, quindi lei non ha fiducia in te e tu simmetricamente vedi questa sua parte egoica e giustamente non hai fiducia in questa parte egoica. È proprio così, giusto? Ma il tuo compito come anima non è quella di non fidarti di tua madre nella parte egoica, quello è ovvio, ma quella di balzare su, vedere tutto questo dall'anima e vedere che tua madre non è solo questo, ma è anche qualcos'altro. E quando vedrai anche questo, quel qualcos'altro dentro di te, che quindi sarà in pace con tua madre, tu non giochi più la stessa danza e quando lei ci proverà a farla, si trova senza interlocutore. E la smette. Guardate, sono in tantissimi casi in cui noi abbiamo lavorato, in cui questo è accaduto, ma addirittura a distanza. Ricordo una volta che eravamo in cucina a Camogli con qualcuno di voi, mentre stavamo parlando di un passaggio che una ragazza come te ha fatto con sua madre, che lei ha cambiato tutta la percezione di sua madre, arriva un messaggio, una telefonata di sua madre, con un messaggio. Un sms, ti ricordi? In cui sua madre per la prima volta nella sua vita diceva io ti benedico, voglio il tuo bene e voglio che tu ti possa... Ma lei dice ma questa non è mia madre, ma chi è sta qua? Sai cos'era cambiata? Era cambiata lei. Addirittura a distanza funziona. Quindi avere fiducia nella nostra anima significa avere fiducia nel divino. È una grande cosa e cambia proprio tutta la nostra percezione. Quindi ogni volta che noi ci troviamo con aspetti egoici di altre persone, l'ego ci dice rinforza il tuo ego per difenderti e così otteniamo l'opposto di ciò che vogliamo, mentre dobbiamo prenderlo come messaggio: fai crescere la tua anima in modo che l'ego dell'altro non influisce più su di te. Bene.